difficult to practice metta if your body is uncomfortable. È difficile praticare metta se il vostro corpo non è in una situazione di confortevole. When we practice metta, we're developing an attitude. Quando si pratica metta si sviluppa un'attitudine. So don't worry about how you feel. Non vi preoccupate di come quello che vi sentite. You can still practice developing goodwill even though you might not feel very well. Si può fare la pratica di sviluppare la benevolenza anche se non vi sentite molto bene. So for instance you might feel sleepy or you might feel a little depressed. Vi potreste sentire addormentati o depressi. So we just put those feelings to one side. Mettiamo da parte queste sensazioni. And now we're going to use our imagination and thinking in order to develop an attitude of goodwill. E sviluppiamo la nostra immaginazione per sviluppare questa attitudine di benevolenza. The blessings that we offer. Le benedizioni che offriamo. So may you be safe. Possa tu essere al sicuro. May you be well. Possa tu stare bene. May you be happy. E possa tu essere felice. And may you live contented. E possa tu vivere appagato. And in harmony with the world. E in armonia con il mondo. Even when the world is not such a pleasant place for us. Anche quando il mondo non è un posto così piacevole per noi. We work with it. Noi ci lavoriamo. So we begin by bringing to mind people who've helped us in our lives, our benefactors. Cominciamo col portare alla mente le persone che ci hanno aiutato nella vita, i nostri benefattori. As you picture them in your mind's eye, one or two. Immaginiamoli nell'occhio della mente. And just offer them your blessings. E offriamo a loro le nostre benedizioni. May you be safe. Possa tu essere al sicuro. Well and happy. Star bene e felice. May you live contented in harmony with the world. Possa tu vivere appagato e in armonia col mondo. We can bring to mind those who are near and dear to us. Possiamo portare alla mente quelli che ci sono vicini e ci sono cari. May you be safe, well and happy. Possa tu essere al sicuro, star bene ed essere felice. May you live contented in harmony with the world. Possa tu vivere appagato e in armonia con il mondo. We can bring to mind friends, people at work, whomever we wish. Possiamo portare alla mente gli amici, le persone con cui lavoriamo e chiunque ci venga in mente. We can bring to mind a neutral person, someone we see but don't know. Possiamo portare alla mente una persona neutra, qualcuno che abbiamo visto ma non conosciamo. Like a neighbor. Come un vicino. we can turn this loving kindness towards ourselves. Possiamo portare questa benevolenza anche verso di noi stessi. Into the heart of goodwill, we can bring somebody we have difficulties with. Dentro, nel cuore di questa benevolenza, possiamo portare qualcuno con cui abbiamo delle difficoltà. We can now offer our goodwill to each other. E ora possiamo offrire la nostra benevolenza gli uni agli altri. Our present spiritual companions. Ah, i compagni spirituali di adesso. May we be safe, well and happy. Possiamo noi essere al sicuro, star bene e felici. Relocating to where we live, to our neighbors and neighborhood. E trasportiamoci a dove viviamo e quindi ai nostri vicini e alla zona in cui viviamo. From there to all the people in our country. E poi a tutte le persone nel nostro paese. All the peoples of Europe. Tutte le persone dell'Europa. All people on earth. Tutte le persone della terra. And to all beings in all directions. E a tutti gli esseri in tutte le direzioni. We can draw our metta to an end with the chant, may all beings be happy. Possiamo arrivare alla fine della nostra pratica di metta con il canto, possano tutti gli esseri essere felici. Sabbe, sata, sukita, hontu, and then sadhu three times. E prima sabbe, sata, sukita, hontu, e poi sadhu per tre volte. Which means well done. Che significa ben fatto. Sabbe sata sukhita hontu. Sabbe sata sukhita hontu. Sabbe sata sukhita hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. So we can take a seat, intending to sit. E ora, quando andiamo a dormire, intenzione di andare a dormire. No, no, no, sit, sit. Ah, sit. Not no, yet. No sleep, sit. Okay. No, no, don't sleep yet. Old rockers are deaf. So now don't forget, from this moment until you fall asleep is also part of your practice. E quindi non dimenticate che da questo momento al momento in cui andate a dormire è ancora parte della pratica. Meditation in action is very simple. La meditazione in azione è molto semplice. Just pay attention to what you're doing. Portate l'attenzione a quello che fate. To what you're feeling. A quello che provate, che sentite. When you're brushing your teeth, the attention is on the actual process of brushing your teeth. Quando vi spazzolate i denti, l'attenzione è proprio sul processo dello spazzolarsi i denti. And the taste of the toothpaste. È il gusto del dentifricio. And then finally, when you are lying in bed. E alla fine, quando siete sdraiati nel letto. Develop a mental state which becomes the substrate of your sleep. Sviluppate uno stato mentale che diventa il substrato del vostro sonno. So you can practice this metta. Potete praticare questa metta. But it has to be very simple, eh? Ma deve essere molto semplice. So some may you be well and happy. It's enough. È abbastanza dire possa tu essere possa tu stare bene ed essere felice. And to yourself. E verso noi stessi. To somebody whom you have no problems or very little problems. E verso qualcuno con cui non abbiamo problemi o se ce li abbiamo molto piccoli. And then to all beings. E poi a tutti gli esseri. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Just repeat it gently. E ripeterlo gentilmente. Or you can use the breath. O potete usare il respiro. But not to investigate. Ma non per investigare. Just to feel the gentle sensations. Ma solo per sentire le sensazioni gentili. So this begins to just relax, make yourself very peaceful. E questo fa rilassare e diventare uno stato pacifico. If you have difficulties in sleeping in a strange place. Se avete difficoltà a dormire in un posto strano. Or you feel very restless. O vi sentite molto agitati. So begin with a very comfortable position. Cominciate con una posizione molto comoda. And refuse to move. E rifiutate di muovervi. Every time you move, you reinforce your restlessness. Perché ogni volta che vi muovete, rinforzate la vostra agitazione. And take your attention from the top of the head all the way down to your feet. Portate l'attenzione dalla sommità della testa giù, giù, giù fino ai piedi. And very quickly you will fall away into sleep. E molto rapidamente cadrete nel sonno. This is not guaranteed. Non è garantito. Don't forget to make a fierce resolution to wake with the bell. E non vi scordate di fare una forte risoluzione di svegliarvi con la campana. And you can also make a resolution. Potete anche fare una risoluzione. To see if you wake up with the in breath or the out breath. Di guardare se vi svegliate con una inspirazione o con una espirazione. And then to make sure that you catch your first intention. E poi essere sicuri di cogliere la vostra prima intenzione. If when you hear the bell you find yourself standing outside your bed. Se quando sentite la campana vi trovate in piedi fuori dal letto, go back into bed. Tornate nel letto. Make the intention to rise. E fate l'intenzione di alzarvi. And go slowly and quietly. E poi andate lentamente e con calma. Yes. When we were at school, we were taught to make our corrections. To make corrections. Ci è stato insegnato a scuola di correggersi. Correggersi. So every time you do something wrong, you have to go back and do it again. E quindi tutte le volte che fate qualcosa di sbagliato dovete tornare indietro e rifarlo nel modo giusto. It is actually very powerful. E questo è veramente molto potente. So if over tomorrow when we're trying to just slow everything down. E quindi da domani, quando si cerca di rallentare tutto, So just catch yourself, go back to the beginning and start again. E quindi coglietevi a un certo momento, tornate indietro e ricominciate da capo. Yes. Can I wish you a very peaceful sleep? Che possiate dormire in modo molto pacifico.